Non so se avete mai provato questa sensazione di essere fuori luogo proprio nel luogo in cui avete fatto di tutto per essere. A me è successo così proprio sabato, quando mi sono trovato al Vomero, il quartiere alto di Napoli, quello in cui i palazzi sono stuccati e i portoni sono in legno massiccio e hanno un portiere che accoglie gli inquilini. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:07, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia, sono qui. Oggi è uno di quei giorni in cui il cielo qui a Milano sembra sempre scuro come fossero le 5 del pomeriggio. Tu ti svegli la mattina e speri che ci sia qualcosa che cancella quello che è successo alla tua squadra la sera prima. Poi ti alzi, ti rimetti insieme e cerchi di capire cosa devi fare. Pensi che visto che piove, come all'equatore, però fa freddo, come a Tallinn, è meglio se ti metti le scarpe pesanti e impermeabili. Hai un incontro alle 11 dall'altra parte della città e ti consoli ricordandoti che lì vicino c'è una pasticceria che fa delle brioche dolci buonissime. Il cappuccino pure non è male. Ci arrivi 45 minuti dopo, quando ti sei accorto che il giubbotto waterproof e windstopper che hai pagato uno sproposito è proof come tua nonna e ti ha bagnato il maglione che avevi sotto, ma non perché non è impermeabile, ma perché tu ti eri dimenticata aperto una tasca e quella no che non è waterproof. Insomma, arrivi alla pasticceria delle brioche buone ed è chiusa. E tutto questo ti ricorda che giusto oggi è lunedì, certo, è lunedì e a lunedì è chiusa e oggi è pure lunedì. Compensi il tutto con un bar dall'altra parte della piazzola che non fa le stesse brioche ma almeno ci fai colazione. Poi vai all'appuntamento dove dovevi parlare di una cosa e mentre ne parli ti accorgi che quella cosa suona malissimo, che nella tua testa sembrava una figata e invece no, la stai dicendo talmente male che manco tu ti daresti credito. Allora perché dovrebbero dartelo alle persone che c'hai davanti? Una riunione è di quelle riunioni che non finiscono mai, che dopo 20 minuti ti accorgi che non finirà mai e sai che una riunione che supera i 20 minuti è già inutile. Poi esci e sono le 2 e non hai mangiato perché la riunione non finiva più e ti ricordi che piove. Arrivi al lavoro che è dall'altra parte della città rispetto al luogo in cui sei, perché in questi giorni tutto sembra sempre dall'altra parte della città rispetto al luogo in cui sei. Quindi ti fai forza e ci arrivi dall'altra parte, ma ad un'ora che è già troppo tarda per mangiare e allora prendi un panino al bar, dove hanno finito il pane. E ti rifilano del prosciutto e mozzarella infilato in 2 fette di pane da toast, ma non tostate, che anche mia nonna, che non è waterproof, sa che il pane da toast non tostato fa schifo. Poi sali in redazione e gli amici intorno a te ti ricordano il risultato della tua squadra ieri sera e tu cerchi in tutti i modi una faccia e una battuta giusta per rispondere, ma ti viene in mente solo quello che ha fatto l'anno scorso la tua squadra, ma rispondere ad un'osservazione su una partita della sera prima con i risultati di una stagione fa è da sfigati. E quindi sorridi e incassi. Poi ti ricordi tutto quello che ti è successo nel fine settimana. Di Napoli, del viaggio, del mare e della leggera sensazione di essere fuori posto. E ti rendi conto che al confronto con oggi non era nulla. E che una giornata grigia, di pioggia, piena di riunioni assurde e giubbotti bagnati, è la finale di Coppa del Mondo del sentirsi fuori luogo. E tu la stai per vincere, sbaragliando tutta la concorrenza. Buongiorno a tutti, oggi è il 15 di novembre, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, l'ho già detto ma tocca ripeterlo perché di questo si parla oggi, si parla della sensazione di sentirsi fuori luogo. Ora, quello che vi ho appena raccontato è la sensazione che ho da questa mattina più o meno, è stata una notte molto breve, questa è stato un weekend invece molto lungo. Per chi segue questa trasmissione sa che c'è da raccontare molto in questo fine settimana perché l'affermazione è l'ho trovata, o meglio... li ho trovati e ora vi spiegherò esattamente com'è andato questo weekend e cos'è accaduto alla lettera che dovevo consegnare a Vincenzo. Con calma ve lo spiegherò tra oggi e domani perché una unica puntata non basta. Quella sensazione lì però, quella del sentirsi fuori il luogo, mi è veramente venuta fuori durante questi giorni e in particolar modo poi questa mattina e ancora oggi qui in radio, e mi è venuto in mente che ci sono dei momenti in cui tu ti rendi conto che cosa vuole dire sentirsi fuori luogo. Buon pomeriggio a tutti, dopo aver ringraziato. Tipo, sono quei momenti in cui tu dici: ma io esattamente qui che cosa ci faccio? Questo è ancora peggio se tu hai fatto di tutto per essere lì. Vi faccio un esempio molto semplice. Io quando avevo 19 anni mi sono iscritto a una scuola di teatro. Per fare questa scuola bisognava fare dei provini, delle selezioni. Ne fai una, la passi, fai seconda, la passi e sei contento di essere poi all'interno di questa scuola che ti dicono essere molto prestigiosa perché la fanno in pochi e perché dura tanti anni. Passano 2 anni. tu frequenti questa luoga, frequenti i corsi di questa scuola e ti ritrovi un giorno a fare una lezione di voce, una lezione in cui la tua insegnante, che sostiene essere molto esperta, che ha fatto seminari, laboratori in giro per il mondo con attori e cantanti di tutto il mondo, ti dice: benissimo, oggi bisogna liberare i chakra. Tu hai all'incirca 20 anni, ma c'era gente che ne aveva anche 25. Sei tra l'altro in un'aula di questa scuola molto prestigiosa che ha delle aule vicino alle aule dell'università statale. Quindi lì ci sono dei ragazzi che studiano, ci sono dei professori, gente che arriva in giacca e cravatta e si mette a parlare di Sofocle o di Kant o quelle robe che si insegnano all'università. Tu invece sei nell'aula di fianco, sei in tuta e la tua insegnante di voce ti dice: oggi liberiamo i chakra. Come li liberiamo? Li liberiamo muovendo le mani nell'aria come se fossimo dei gabbiani e facendo questo verso con la bocca. Ah! Aspetta Paolo. Ah! Tutto questo te lo dice con una serietà che tu pensi: beh, ma non si prenderà un pochettino in giro questa signora. Niente, ma la lezione va avanti, tu ti guardi intorno e tutti i tuoi compagni lo stanno facendo, quindi tu non puoi non farlo. Ah! Siamo 12 e visto che bisogna liberarli questi chakra, bisogna su con la voce, forza! Ah! Camminando in circolo. E tu già ti dici: vabbè, cerco di non pensarci che sto facendo questa cosa, perché altrimenti non riuscirei a farla. In quel momento qualcuno bussa alla porta, ma nessuno lo sente che hanno bussato alla porta, perché tutti stiamo facendo. Ah! Per cui la scena che si presenta di lì a poco è che io mi giro, vedo la porta dell'aula aperta e vedo queste miriadi di teste di studenti dell'università e in mezzo il professore, quello di prima, quello serio con la barba, la giacca e la cravatta, che ci guardano allibiti, come dire: ma cosa succede? E noi: ah! E la nostra prof di voce, che la guarda e dice: scusate, ma se vi spiace chiudere la porta, noi staremmo lavorando. Ecco, io credo di non essermi mai sentito fuori luogo come in quell'occasione lì. 800240024 349-238-6666. Avete presente quando fate di tutto per arrivare in un posto? E quando ci siete vi dite: ma che cosa ci faccio qua? Tipo, che so io, che avete fatto dei chilometri per incontrare dei vostri compagni di classe che non vedevate da tanto, vi dicevate: ma sì, sono anni che non ci incontriamo, fa anche piacere vedersi dopo anni. Poi siete lì e veramente: ma cosa diavolo ci sto facendo con questi? 800240024. Oppure fate di tutto per arrivare a ottenere un posto di lavoro. Fate dei colloqui, studiate, vi preparate e poi, dopo ma nemmeno degli anni, dopo qualche mese, vi trovate in una riunione con della gente orribile, vi guardate in giro e vi dite: io sono veramente fuori posto qua. 800240024 349-238-6666. Ce ne sono diverse di occasioni in cui ci si trova fuori luogo. Se avete voglia di raccontare, magari qualcuno che proprio oggi, in questa splendida giornata, in questo splendido 15 novembre del 2010, si è trovato da poco completamente fuori posto e ha voglia di raccontarlo. 800240024 349-238-6666. Veniamo al mio weekend e al sentirsi fuori luogo, perché andiamo con ordine. Venerdì pomeriggio è cominciato così. Perché il mezzo con cui raggiungi un posto fa una differenza sostanziale su come vivrai quel posto. Perché la prima impressione conta, e come. Ad esempio, arrivare in aereo è il modo più panoramico, però anche il più asettico. Dall'alto ogni cosa sembra ordinata, le vie sono precise, le auto che ci si muovono dentro sembrano regolate da una mano che le gestisce con un'armonia sovrumana. Entrare in auto in una città è più complicato, però regala un contatto immediato con quel posto. Cioè, passato il casello dell'autostrada, ti infili nelle vie della città e il rumore e la qualità del traffico ti raccontano subito che tipo di città è quella lì. Venerdì pomeriggio, dopo il programma, io ho infilato la lettera di Agatha nello zaino e sono partito per Napoli in treno, che secondo me è il modo più placido per entrare in una città. Perché hai il tempo di vedere il paesaggio che cambia lentamente, e quando poi il treno rallenta ed entra in città, vedi i palazzi da una prospettiva che nessun altro mezzo ti permette di osservare. L'ultima volta che c'ero stato a Napoli, ero arrivato in barca. La sensazione che si prova arrivando in un posto via mare è simile a quella che si prova quando stai per finire un libro, e ti sembra che quelle ultime 10 pagine non finiscano mai. Nel senso che da che vedi terra a che alla terra effettivamente ci arrivi passa un sacco di tempo, ed è un tempo che sembra fatto apposta per far sì che tu ti possa ambientare ancora prima di arrivare. Vedere Napoli dal mare è come vedere quelle cartoline che di Napoli siamo abituati a vedere. È come succede nelle cartoline, non senti nessun rumore. Quasi fosse una città muta, in cui tutti cercano di fare le cose che fanno, ma in silenzio. Poi, mano a mano che ti avvicini, il volume si alza e tu capisci che in quella città ci vivono un sacco di persone. Persone che, come tutte le persone, hanno un sacco di cose da fare. E a Napoli, tutti quelle cose le fanno in motorino. Tu senti questo rumore di sottofondo come un ronzio, ma non capendo da dove proviene, vedendo uscire quel filo di fumo da quella montagna mozza, pensi che la marmitta sia quella lì, pensi che sia il Vesuvio. Poi quando arrivi a Napoli e scendi dalla nave, dal treno o dall'auto, percepisci il vero rumore della città, quello del traffico, quello delle voci. Sembra che tutti abbiano un sacco di cose da dirsi e le dicano tutti ad un volume altissimo. Hanno un modo differente di parlare rispetto a quelli che vivono altrove in Italia. Sembrano tutti arrabbiati. Cioè, nel senso, se io dico a qualcuno, ad esempio, Giuseppe vai a comprare il pane, e glielo sto dicendo per la prima volta, io glielo dico pacatamente, più o meno. Ecco, a Napoli invece sembra sempre che lo stiano dicendo per la settima volta. E quindi diventa tipo, Peppi, va a cattà sto pane! Ecco cos'è. Cioè, è come se il dialetto napoletano non prevedesse la forma interrogativa. È tutto affermativo. Eppure a me Napoli piace da morire. Anche se tutti mi guardano come se gli avessi fatto un torto. È come se fosse un differente modo di guardare, da sotto a sopra. Il problema è che dopo un po' questa cosa diventa anche inquietante. E senti che potrebbe succederti qualcosa. Io avevo un biglietto in tasca dove c'era scritto l'indirizzo di Vincenzo. Potevo prendere un taxi per andarci direttamente. Ma mi imbarazzava arrivare a casa di una persona che non conosco per portargli una lettera indirizzata a lui, ma scritta 50 anni prima. Allora mi sono messo a camminare. Ho preso un vicolo che sembrava portare nella parte alta della città. E dopo una ventina di minuti, in mezzo a questi vicoli, mi sono trovato in un quartiere che pareva stare in un altro posto. Le case erano ben tenute, le persone vestite di tutto punto, anche il modo di parlare era differente. Come se fossero state le stesse persone che popolavano i vicoli dove ero prima, però un po' imborghesite. Ho camminato per un po' e poi mi sono detto che forse preferivo dove ero prima. Che forse dove ero prima sentivo che poteva succedermi qualcosa. Invece qui mi sembrava che non potesse succedermi proprio niente. Ho visto una panetteria, sono entrato e mi sono preso una pizzetta. E con la bocca sporca di sugo sono entrato nella parte bassa della piramide. Sì, perché Napoli è un po' come una piramide. Sopra l'aria è fina e sotto si soffrigge. E a me l'odore del soffritto piace da morire. Io però ero lì per un motivo e quindi dovevo dare un senso al mio essere lì. Dovevo trovare una persona a cui consegnare una lettera che non era stata spedita e si trovava in una scatola nascosta sotto le piastrelle del mio bagno. Solo che a pensarci mi sembrava una cosa davvero stupida e inopportuna. Cioè, sapevo che in fondo non lo era, però quando tra il prendere la decisione di fare una cosa e arrivare poi a concluderla ci metto in mezzo un viaggio e quindi del tempo, delle riflessioni. È come se quello per cui sono partito qualche ora giusto prima, non avesse senso. Anzi, peggio, è come se fosse stata un'idea avventata che finirà per mettermi in ridicolo. Non so se a voi capita mai questa cosa. Cioè, siete a casa vostra, sul divano a guardare la TV, oppure in cucina, mentre preparate la cena. E all'improvviso vi viene un'idea. Anche piccola, Non per forza quella che cambierà il mondo, ma un'idea che però vi piace, che pensate potrà rendervi la vita un po' migliore. Come, che so, andare a incontrare una persona che non vedete da anni, a cui dovete dire qualcosa. Oppure qualcosa tipo andare a lanciarvi da un ponte di 80 metri, legati con un elastico. Oppure consegnare una lettera vecchia di 50 anni ad una persona che non l'ha mai ricevuta. Insomma, mentre l'idea prende forma, prende vita nella vostra testa, tutto sembra improvvisamente perfetto. Tutto sembra opportuno, come se il problema fosse che fino a quel momento non vi era mai venuto in testa e non il contrario. E quindi vi allenate, ci pensate su, fate in modo che tutto sia al posto giusto nel momento giusto. Vi preparate anche le parole giuste e un discorso da abbinare alla faccia da avere. e poi comprate il biglietto. Salite su un treno, su un aereo, oppure fate benzina e guidate per ore. E quando arrivate sul posto, vi guardate intorno e vi accorgete che è cambiato il paesaggio attorno a voi. È cambiata pure la luce, perché sono trascorse delle ore, si è fatta sera. E ora non siete più sul vostro divano o nella vostra cucina a cullare un'idea magnifica ma ancora lontana. Eh no, adesso siete lì. E non vale più pensarci sopra. Ora tocca mettersi lì e farla, quella cosa. E quella cosa, qualsiasi sia, significa incontrare una persona, quindi suonare un campanello. Significa salire sul ponte e guardare di sotto. E solo quando abbassate lo sguardo vedete quanto è alto il salto che state per fare, vi rendete conto che quella non era per niente una buona idea. Che ora non vi va più di farla, che vi fa paura, che non siete fatti per fare questo genere di cose, perché se avete trovato una lettera in una scatola, chi lo dice che dovevate per forza portarla al destinatario? Ecco, non so se avete mai provato questa sensazione, di essere fuori luogo, proprio nel luogo in cui avete fatto di tutto per essere. Beh, a me è successo così proprio sabato, quando mi sono trovato al Vomero, il quartiere alto di Napoli, quello con i palazzi stuccati e i portoni in legno massiccio, quello in cui c'è un portiere che accoglie gli inquilini. Ecco, proprio da uno di quei portieri sono andato, all'indirizzo e al numero che era segnato sulla lettera. Era un indirizzo del 1960 però, e quindi poteva essere tutto, poteva essere che il palazzo era venuto giù col terremoto, che l'indirizzo fosse sbagliato, o banalmente che Vincenzo non vivesse più lì. E invece, quando mi sono avvicinato al portiere dicendo che dovevo consegnare una lettera e gli ho mostrato il nome del destinatario, lui mi ha sorriso e mi ha detto: «Mi spiace, ma il signore è fuori casa». Gli ho chiesto se sapeva dove poterlo trovare. Lui mi ha risposto che, come tutti i fine settimana, andava al mare con la famiglia. Ecco, io lì ancora non sapevo se essere felice per la notizia che Vincenzo esisteva e che addirittura abitava ancora lì, oppure essere affranto per il fatto che non fosse in casa. Tenevo ancora in mano la busta dove gli avevo fatto leggere il nome di Vincenzo. Per un attimo ho pensato di lasciarla a lui e di fargliela consegnare. Poi però ho deciso che volevo andare fino in fondo. Quindi ho fatto un respiro e gli ho chiesto dove fosse la casa al mare. E lui mi ha risposto: è la casa di famiglia, quella di Procida. E allora, andiamo a Procida. Widest ocean, soft inside, just enough to color it nice. Who's your willing sacrifice? Made us in one day. Ring ding, another one dies. Watching posers scandalize, trading off their panty lines one day. Tropical island, whoa, whoa, whoa, whoa. 10 anni fa ho preso la macchina alle 5:30 di mattina, mi sono dato malato al lavoro e mi sono fatto 200 km perché operavano la mia ex ragazza. Ci eravamo lasciati un mese prima. Quando sono arrivato ho trovato i suoi genitori e il suo nuovo ragazzo che mi hanno guardato un po' storto. Ciao Stefano. A me è capitato a maggio al concerto degli SDC a Udine. Era da tutta l'adolescenza che aspettavo di vederli, ma quando ero lì mi guardavo intorno e vedevo sti energumeni alcolizzati con cui non vorrei avere mai avuto niente a che fare. E uno che mi abbracciava pure, esultava in continuazione. Allora ho detto: sai che c'è, gli SDC me li ascolto a casa o in macchina, che è meglio. Riccardo da Udine, adesso ci ascoltiamo La Borsa e dopo poco Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto siamo in campagna, siamo per esattezza in un vigneto. Ci sono dei filari di vigne, evidentemente le foglie sono abbastanza gialle, quindi deve essere non novembrine, quindi probabilmente fine settembre. La luce è quella serale e appoggiato ad un tronco che regge una vigna c'è un signore, un ragazzo con una bella faccia sorridente, c'è su un paio di jeans, insomma è vestito da lavoro, va, con un bel cappelluccio in testa e un bel paio di stivali da campagna. Dario Milan Bordignon, 31 anni. Sto lavorando nel mio vigneto a Desenzano del Garda. Mi godo l'autunno e la tua compagnia. Io sono qui. La foto è sul sito radio24.it, la pagina Io sono qui. Non ho capito però se Dario ci ascolta mentre lavora i campi. Tu l'hai sentito, Vito? Ci ascolta mentre lavora i campi, la vigna. Bene, andate a vedere la foto perché lui c'ha una faccia abbastanza soddisfatta. Allora, innanzitutto un paio di messaggi che rispondono ai messaggi di prima. A quello che andava a trovare l'ex fidanzata dopo un mese. Boia, dopo un mese che ve eravate lasciati c'era già un altro. Delicata, Andrea. E poi un altro invece che è dedicato a quello che è andato al concerto degli SDC. Caro amico di Udine, il rock non fa per te. Goditi la Pausini, vai. Ma è subito polemica. Perché uno dice che va a un concerto e non gli piace che uno sudato e ubriaco lo abbracci? insomma, può averci anche le sue ragioni. 800 24 00 24, 349 238 6666. Come non sentirsi fuori luogo? Faccio a volte incontri al buio organizzati su chat e il 90% mi dico sempre: ma cosa ci sto facendo qui? Ciao Luis. Ma Luis, ma gli incontri al buio in chat sono degli anni 90, ma basta. Questa primavera sono arrivato con 15 minuti di ritardo alla riunione di area e tutti si sono girati, compresi tutti i capi e il direttore. Avrei voluto essere altrove. Cosa ci facevo lì? Lavoro per la Coca-Cola. Vabbè, insomma, però, arrivare in ritardo. Ciao, nave Hong Kong Canton, Cina. Ponte della nave con una gabbia di ferro piena di gatti. Ma che cosa ci faccio qui? Perché ho speso tutti questi soldi per un posto così strano? Volevo andare negli USA, anno 1990. Mai più che un'avventura nel mondo. Baci, Carmen. 800 24 00 24, 349 238 6666. Oggi non ci abbiamo molto tempo. Andiamo subito a Parma da Giuseppe. Pronto Giuseppe? Ah, pronto, ciao Matteo. Ciao sono Giuseppe, qui. Sei qui, benissimo. E io sono qui, quindi ci siamo. Raccontami tutto. Allora, è successo questo. Io tutti i mesi andavo da un mio cliente a prendere i soldi. Che lavoro fai, Giuseppe? L'assicuratore. Ok. Allora, vado una l'assicuratore, mattina... Giuseppe, è ancora il mestiere che si può fare solo con la licenza media, sì? Sì, sì, anche sì. No, nel senso che adesso, detto tra noi, l'assicuratore è il lavoro con cui si guadagna tanto senza dover per forza aver fatto degli studi particolari. Lo so. Te lo chiedo, non sono sicuro, te lo chiedo. Non c'è bisogno, difatti a me mi avrebbero preso anche se avessi avuto soltanto la licenza media, poi il resto devi lavorare, cioè insomma... Quello non... altre doti che, oltre a quello dello studio. Chiaro. Allora, dunque, io... Vai dal cliente. Ci andavo tutti i mesi regolarmente, vado una mattina, trovo il cartello, non ci sono più, per urgenza rivolgersi a questo indirizzo. Io prendo la mia bici, arrivo all'indirizzo che c'era scritto nel cartello, suono, cioè non so dove suonare perché il nome non c'era nel campanello, ne suono quello libero, uno dei tanti campanelli che era un campanello libero, e mi si apre il cancello e mi si apre il portone del palazzo. Arrivo, entro nel palazzo, sento una voce che mi chiama: venga, venga, venga pure. Ma però non c'era da salire, c'era da scendere. Sì. Arrivo, mi apre la porta un signore tutto vestito di nero, con un crocifisso appeso al collo, quelli grandissimi, con i baffi. Io dico: ma io cerco la signora Gina. No, venga, venga, è qui. Era lo studio di un mago, sai quei maghi che fanno tutte... Non un prestigiatore, un mago di quelli che predicono il futuro. Un mago proprio che faceva con gli altari, con appesi ai muri tutti i poster, tutta quella roba... Scusami, e chi era il cliente? La moglie? Io cerco la signora Gina, poi cerco un odore di incenso fortissimo, il fumo che usciva dalla porta, sa tutti? E c'erano clienti? No, non c'era nessuno. E dice: esco la signora Gina. No, signora venga, Gina. Venga, è qui la signora Gina. E allora invece la signora Gina era, si era sposata col mago e... Era la moglie del mago, veramente, la signora Gina. Poi ho visto quel fumo, ho fatto la polizia incendio allo studio del mago e sono andato via. Giuseppe, grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie. Lui cercava la signora Gina, questa sera, capito? Cerca la signora Gina. Non mi sono mai sentito così fuori luogo come in questo ultimo periodo. Faccio un lavoro che non mi piace, vivo in un posto che non mi piace, vivo in una casa che non mi piace, ho una macchina di merda che non mi piace, io non so se amo o non amo la donna con la quale vivo, è un disastro, ma l'abitudine e la paura mi impediscono di andarmene, di cambiare, non so dove vorrei e dovrei essere, ma ti garantisco una sensazione orribile, forse è questo quello che intendi, mi sa che io intendevo anche di meno, mi sa che così forse è meglio pensarci su. 800 24 00 24, andiamo a Brescia da Valeria. Pronto Valeria? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Sei in macchina Valeria? Sono ferma. Sei ferma, brava, vai, sì. Raccontami. Ascolta, niente, io ti volevo raccontare questa cosa perché è pazzesca. Io 8 anni ho trovato la casa dei miei sogni. Sì. Fuori dalla città, in una dimensione tipo Franciacorta, non so se sei presente. Sì, insomma, abbastanza idilliaca, con le colline, le viti, ecco, e le piante. Bravissimo. E da qualche mese ho chiesto il trasferimento del lavoro a 1200 chilometri da qua. Perché mi sento fuori luogo, cioè proprio... Cioè ti senti fuori luogo nella casa che tu hai voluto a tutti i costi nella Francia? A tutti i costi, mutuo di 25 anni, con tanti sacrifici. Che lavoro fai Valeria? Lavoro per un'azienda alimentare, però sono itinerante, quindi posso... Ma tu sei single o sei sposata? Separata, no, perché è lì che, scusami, non è la casa... No, No, cioè io sono libera da questo punto di vista di muovermi dove voglio. Vabbè, ok, insomma. Valeria, non ho capito, non lo vuoi dire, insomma. Ma tanto okay. non mettiamo il tuo profilo su Facebook, Valeria, non ti preoccupare. No, tanto non ho Facebook. Ma ti trasferiscono? No, allora, mi hanno detto che potrebbe aprirsi una posizione tra 2 o 3 anni, quindi è una cosa che alla fine si avvererà. Però sì, ho capito, però tra 3 anni tu c'hai il mutuo, non vuoi stare lì in casa con quella persona con cui stai? No, guarda che non sto davvero... No, è una scelta individuale. Ok. Mi sono innamorata del sud Italia, semplicemente. Vabbè, insomma, lo capisco pure. Dov'è che vuoi andare a stare, Valeria, esattamente? In Puglia. Senti, facci sapere quando ti trasferiscono e se trovi anche uno straccio di fidanzato, magari, Valeria. Sì, magari a sud. Ciao, Valeria, grazie mille. Ciao, grazie. Bando per un posto di lavoro come elettricista a Civitanova Marche. Dopo essermi preparato e dopo aver studiato, ho visto con i miei occhi un parente di un responsabile che faceva un quadro elettrico con lo schema sotto gli occhi. Bellissimo, non ho capito cosa voglia dire. Ah, con lo schema, quindi è come se stai copiando, probabilmente. Ultima telefonata, ce la facciamo. Carlo da Pavia, pronto Carlo? Ciao Carlo, ciao Matteo, sono confuso. Tranquillo Carlo, vai dritto. Ok, niente, velocissimo. Anni fa ho conosciuto una ragazza bellissima, il tipo ideale, insegnava yoga, doveva essere calmissima, ha detto benissimo, una donna bella, calma, sì. Il massimo. Mi dice, mi telefona dopo una settimana che non ci eravamo più visti e mi fa, ti invito giù in Calabria, c'è uno stage di yoga, ma io non ho mai fatto yoga, e chi importa, ci vieni apposta. Certo. Bene, parto, vado, perché... tutto facile, sarà un modo elegante per invitarmi a stare con lei. Arrivo giù, mi riceve, bellissimo, che risuona, prima lezione di yoga, io la guardo atterrito perché gli ho detto che sono imbranato come un gatto di marmo, mi metto in prima fila, oddio. Però lei mi ha detto, tu sei un batterista, quindi mi insegna magari djembe, fai uno scambio fra lo yoga e il djembe. Certo, uno scambio, sì. È uno scambio, che si scambiano tutto. Benissimo, mi metto a fare sto yoga allucinante, alla fine sudatissimo perché l'imbarazzo, ero immobile come un gatto di marmo, mi dice, bene, adesso fai un paio d'ore con loro e gli insegni djembe. Ho passato 3 giorni sotto il sole a picchiare con un djembe. Insomma, vi siete lasciati alla fine? Manco, ma più visto. Okay. Alla terza lezione del terzo giorno sono tornato a casa. Grazie mille, ciao alla prossima. Grazie a te, grazie anche a Paolo da Padova che mi dice, per fare assicuratore devi almeno aver fatto una scuola superiore, iscriverti all'albo e il reddito è pure modesto. Grazie a Tiziano, a Paolino e a Vittoria. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?